Sura 72esima. Al Jin. I demoni. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Di. Mi è stato rivelato che un gruppo di demoni ascoltarono e dissero: In vero, abbiamo ascoltato una lettura meravigliosa, che conduce sulla retta via. Abbiamo creduto in essa, e non associeremo nessuno al nostro Signore. In verità egli, esaltata sia la sua maestà, non si è preso né compagna né figlio. Uno stolto dei nostri diceva menzogne contro Allah. Pensavamo che negli uomini né i demoni potessero proferire menzogne contro Allah. In vero c'erano degli uomini che si rifugiavano presso i demoni, e questo non fece che aumentare la loro follia. Anch'essi pensavano, come lo pensavate voi, che Allah non avrebbe resuscitato nessuno. In vero abbiamo sfiorato il cielo, ma lo abbiamo trovato munito di temibili guardiani e di bolidi fiammeggianti. Ci sedevamo un tempo in sedie appropriate per ascoltare, ma ora chi vuole origliare trova un bolide fiammeggiante in agguato. Noi non sappiamo se sia stata decretata una sventura per coloro che stanno sulla terra, o se il loro Signore li voglia guidare al bene. Tra noi ci sono dei giusti e altri che non lo sono. Siamo in diverse sette. Pensavamo che mai avremmo potuto annullare la potenza di Allah sulla terra e che non avremmo mai potuto sfuggire a Lui. Quando udimmo la guida credemmo, e chi crede nel suo Signore non teme danno né offesa. Ora tra noi ci sono i musulmani e i ribelli. I musulmani sono quelli che hanno scelto la retta via. I ribelli invece saranno combustibile dell'inferno. Se si manterranno sulla retta via, noi li disseteremo di acqua abbondante per metterli colà alla prova. Allah condurrà ad un castigo incessantemente più severo chi avrà trascurato il monito del suo Signore. Le moschee appartengono ad Allah, non invocate nessuno insieme con Lui. Quando il servo di Allah si levò per invocarlo, poco mancò che lo stringessero fino a soffocarlo. Di, non invoco altri che il mio Signore e non gli associo alcunché. Di, in verità non posso né nuocervi né giovarvi. Di, in verità nessuno potrà proteggermi da Allah e mai troverò rifugio all'infuori di Lui, se non comunicando in nome di Allah i suoi messaggi. Coloro che disobbediranno ad Allah e al suo messaggero avranno il fuoco dell'inferno e vi rimarranno in perpetuo per sempre. Quando poi vedranno quello che è stato promesso loro, allora sapranno chi avrà avuto l'alleato più debole e chi sarà stato numericamente esiguo. Di, io non so se quello che vi è stato promesso è imminente o se il mio Signore vorrà ritardarlo. Egli è colui che conosce l'invisibile e non lo mostra a nessuno, se non a un messaggero di cui si compiace, che fa precedere e seguire da una guardia angelica, per sapere se i profeti hanno trasmesso i messaggi del loro Signore. Gli è ben noto tutto ciò che li concerne e tiene il conto di tutte le cose.